9 in punto. Ha avuto esperienze in qualche ufficio prima d'ora? Sì, certo. Di che tipo di ufficio si trattava? Rettangolare. Ha per caso qualche esperienza nell'uso di un computer elettronico ultimo tipo? Sì, l'ho usato. In che ditta? Mia zia ne ha uno. Ha detto di aver lavorato in un ufficio. Si occupava di produzione o di servizi? Produzione. Si trattava forse di prodotti industriali? No, mi spiace, è del tutto fuori strada. Si trattava di prodotti agricoli? No, siamo lontani, purtroppo. E il tempo concesso è ormai scaduto. Non è riuscita a indovinare qual era la mia occupazione ed è solo per compiacerla che le dirò che cosa facevo. Facevo scarpe da scale mobili per la gente che si era stufata di portare le scarpe da ascensore. Siccome non ha indovinato la mia occupazione, le resta solo il gettone di presenza. $10 e molte grazie. Andrà meglio la prossima volta, lei è un buon giocatore. Grazie allo stato confusionale in cui ha messo Mr. Gross, Virgil ottiene un impiego nell'ufficio spedizioni della ditta. Va bene, non è più, naturalmente, non è più così facile come la faceva Woody Allen, ovviamente. Parliamo di occupazione oggi, di lavoro, perché oggi il governo si riunisce con le parti sociali per provare ad affrontare il problema, soprattutto dal lato dei giovani. Si inizierà a ragionare innanzitutto, a quanto pare, su una revisione della legge Fornero. Nella parte considerata troppo rigida da molti, nella parte che riguarda i contratti a termine, ossia soprattutto il tempo che deve intercorrere tra la fine di un contratto a tempo determinato e l'inizio di un altro. Si ragiona anche sull'estensione del tempo per il quale si può fare un contratto a tempo determinato senza indicare una causale precisa. Questi i temi, però il tema centrale che vogliamo affrontare oggi e quello su cui vi interroghiamo è l'altra ipotesi sulla quale si sta lavorando, sulla quale ci sono state aperture da parte del ministro del lavoro Giovannini, sulla quale vengono espresse molte perplessità, soprattutto dei economisti, ma non solo da loro, ossia quest'idea della staffetta generazionale. Va in part-time un lavoratore, per così dire, anziano e ne può entrare, dato che costa di meno, un lavoratore più giovane. Oppure, in alternativa, il lavoratore più anziano può andare in pensione, con un'eventuale revisione dell'altra legge Fornero, quella che riforma le pensioni. Oggi Il Messaggero parla di un'ipotesi di abbassamento dell'età pensionabile a 62 anni, naturalmente facoltativo, e con delle penalizzazioni intorno al 2% per ogni anno che si scala rispetto ai 66. Che cosa ve ne pare? Ve lo chiediamo all'800 24 00 24, soprattutto per quanto riguarda questa idea della staffetta generazionale, che è un po' un'idea non nuovissima, a dire il vero, insomma, no? Di storie di aziende che fanno uscire i padri per far entrare i figli, siamo pieni, insomma, in parte già esiste, è previsto per esempio da alcune banche, è previsto qualcosa di questo genere, questa staffetta generazionale nel contratto dei chimici, ne parleremo più avanti. Saluto intanto Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, buongiorno. Buongiorno. Allora, leggo molte perplessità su quest'idea della staffetta generazionale, perché tra l'altro Bonanni costa un sacco di soldi, perché quel lavoratore anziano che va in part time tocca pagargli i contributi per farlo arrivare ad una pensione decente. Lei come la vede? Che cosa vi pare a voi? Ma io la vedo bene, perché? Perché da una parte, avendo elevato così tanto l'uscita dal lavoro, può favorire appunto una flessibilità per persone che possono restare al lavoro magari con minori oneri di orario, e quindi nello stesso tempo però dando spazio a delle sperimentazioni in apprendistato di ragazzi che possono farsi esercitare il tutoraggio dagli stessi anziani. È una tecnica che noi abbiamo voluto già nel contratto dei chimici fatto 6 mesi fa e che è stato salutato con molta soddisfazione dagli imprenditori della chimica, ma anche appunto dai lavoratori. Secondo me con una pala prendiamo più piccioni in questo modo, perché inseriamo un po' di ragazzi e soprattutto alleggeriamo l'uscita da parte di persone anziane che si possono programmare meglio, non andiamo verso appunto situazioni pesanti, già che la riforma delle pensioni non ha fatto molta differenza tra persone e persone a seconda del lavoro che fanno. Quindi mi pare una buona tecnica quella della staffetta. Sì, ci sono i contributi figurativi, però lo Stato ci guadagna lo stesso, perché regola meglio la questione delle pensioni, che invece è stata regolata male, perché portare a 67 anni persone che fanno lavori pesanti e così via, io non lo so come va a finire. Quindi, con aziende che vogliono fare il turnover, noi creiamo davvero dei paria nel momento più delicato dell'uscita del lavoro di lavoratori. Segretario, dunque mi sembra di capire che lei vede questa possibilità solamente appunto se si rivede l'età pensionabile sostanzialmente, cioè se fosse solamente con la possibilità appunto di mandare in part-time lavoratori anziani è più improbabile. No, anche in costanza della riforma delle pensioni già fatta, questa tecnica addirittura può essere perfino più efficace, insomma, no? Perché appunto tiene conto dell'esigenza del lavoratore anziano di restare il più possibile a lavorare, anche perché deve trovare i contributi per andare in pensione, e dall'altra parte appunto facendo un lavoro magari pesante, perché stiamo parlando di staffette nell'industria, non stiamo parlando di staffette nel pubblico impiego, in banca o altrove, significa che troviamo appunto una soluzione equa. In altri paesi come l'Olanda questa è una tecnica molto usata. Davide Colombo del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Ciao Davide, innanzitutto fatemi dire a Marco Bove che ci scrive sulla nostra pagina Facebook: chi non ha il padre che lavora nelle multinazionali e le banche, che cosa deve fare? Rimanere disoccupato? In questo caso non si parla di staffetta generazionale tra padri e figli. La staffetta generazionale tra padri e figli è stato un classico in alcune aziende di questo paese, in questo caso si parla di staffetta generazionale punto, cioè tra generazioni, nel senso che il ragazzo che ti prendi in apprendistato non è necessariamente il figlio, è il dipendente, è chi ti pare a te, uno bravo che tu scegli, uno che valuti in base al curriculum e alla laurea, non è una questione di parentela naturalmente. Davide, allora, che tu come la vedi da questo punto di vista? Perché io leggo molte perplessità. Ultimo Alesina oggi sul Corriere della Sera, che dice sì, va bene, è un modo, se vogliamo, per redistribuire un po' di ricchezza tra le generazioni, ma non è che funzioni tanto. Altri dicono guardate, l'aveva già pensata Treu nel 97, non ha funzionato, figuriamoci in recessione. Sì, dunque stiamo parlando di uno strumento di cui si discute da una ventina d'anni. Naturalmente in Italia non si è mai fatta. Nel frattempo in Italia succede questo, che negli ultimi 10 anni la produttività del lavoro è aumentata di un punto contro i 10 punti dell'Eurozona. Succede che la produzione industriale si è ridotta del 25% rispetto al 2008 e non dà segni di ripresa. Allora, questo qui è il contesto. La staffetta di cui si parla dovrebbe essere pensata per aumentare l'occupabilità dei lavoratori più anziani, perché la riforma delle pensioni che abbiamo adottato prevede una durata della vita attiva che arriva fino a 66 anni, 67 anni. È sostenibile questo sistema previdenziale? Bisogna provare sul mercato del lavoro a introdurre strumenti che aumentino l'occupabilità di questi lavoratori anziani. L'aumento di questi lavoratori anziani, la permanenza di questi lavoratori anziani al lavoro significa che ci saranno meno posti per i giovani? sì se non si espande il mercato del lavoro come era negli obiettivi delle due riforme che sono state fatte l'anno scorso e come sono negli obiettivi dell'intera Europa che cerca di capire dove sta andando il suo mercato del lavoro. Immaginare che con questo strumento si risolvano contemporaneamente queste due emergenze, cioè la disoccupazione giovanile e la difficoltà di mantenere al lavoro gli over 55 anni, è una, come dire, è una bella sfida, ecco. Mi accontenterei della seconda. Bonanni, il rischio che sia un po' un pannicello caldo, del resto lo dice anche Giovannini, dice: signori, non è che con gli interventi normativi risolviamo la situazione, qua ci vuole la crescita. Però il rischio che sia un pannicello caldo una soluzione di questo genere, così come il ritocco delle norme sui contratti a tempo determinato, c'è oggettivamente. Certo, è chiaro che l'occupazione, io stesso lo sostengo sempre adesso e anche con la Fornero e prima ancora, quando annunciano di volta in volta che riforme del mercato del lavoro possono generare posti di lavoro, dico, al massimo può far defluire meglio l'occupazione che c'è, può regolare meglio l'occupazione che c'è, non fa posti di lavoro, questo l'ho sostenuto anche io. Non a caso sulla vicenda della staffetta io sostengo che è utile per la ragione di far atterrare meglio verso l'uscita, innalzando così fortemente l'età d'uscita, le persone anziane, e di farla atterrare meglio, insomma, no? Di ridurgli il carico di lavoro nel momento appunto più difficile. Dall'altra può essere utile, ci sono state aziende dove addirittura hanno dovuto far ritornare indietro persone già licenziate di esperienza perché immettevano giovani e nessuno trasferiva loro i saperi o comunque la professionalità necessaria per svolgere le funzioni, possono fare tutoraggio nei confronti di ragazzi e poi si può trovare anche una possibilità appunto per questi ragazzi, che non è risolutivo, cioè sono migliaia e migliaia di soluzioni di questo tipo che possono generare qualche cosa di consistente, ma io sono d'accordo con il giornalista poc'anzi e l'economia che genera posti di lavoro, la buona economia, che è stato vero che aspettiamo col governo un confronto serio, perché la nostra opinione è che, stando le cose come stanno in Italia, solo la riduzione potente delle tasse può rigenerare i consumi e dare possibilità alle nostre industrie e ai nostri servizi di vendere appunto i prodotti che fanno. Diversamente ci sarà una grave situazione ulteriore andiamo incontro, noi parliamo di disoccupati che crescono in questa economia che non va avanti da molti molti anni, quindi questo è chiaro. Poi voglio dire un'altra cosa, spero che Giovannini non faccia come ha fatto la Fornero o altri ministri ancora, perché noi siamo pure stufi. Il governo può avere tutto l'opinione di sto mondo, le rassegna alle parti sociali se ritiene che bisogna fare un ritocco, una modifica e così via, con date alla mano, le parti sociali si esercitano, perché siamo stufi che arriva un governo, cancella quello che ha fatto prima il governo prima e poi arriva un altro ancora dopo, cancella quello che ha fatto l'ultimo governo, cioè non ci convince più questo modo di fare, e poi questa sorta di ventilazione continua, di ipotesi salvifiche, la vicenda salvifica vera è che la classe dirigente italiana, a partire dal governo centrale e quelli locali, mettono al punto centrale della vicenda tutte le iniziative per lo sviluppo, che per me significa tasse, infrastruttura, energia, giustizia veloce, pubblica amministrazione, servizi comuni e tante altre questioni ancora, che sono questioni abbandonate a se stesse. Ci scrive a proposito sulla nostra bacheca Facebook Andrea Riccardi, dice: non sarebbe meglio parlare di cose concrete, come fare a togliere burocrazia, tasse, cuneo fiscale, cita esattamente le stesse cose, costo dell'energia e tutti quei problemi che fanno sì che gli imprenditori non riescano a crescere o che delocalizzino in luoghi più convenienti, sono le condizioni del paese che creano eventuali posti di lavoro. Perfettamente d'accordo. Luigi da Como, buongiorno. Buongiorno, mi ha preceduto questo signore che ha scritto queste cose intelligentissime. Io vorrei dire al signor Bonanni, a tutti quei politicanti che non combinano un cacchio di niente, sono consulente aziendale, premesso, che ad un certo punto hanno mai provato questi signori a combattere contro i permessi la burocrazia italiana? Le aziende mi chiedono di andarsene all'estero dove hanno risposte precise in tempi intelligenti. In Italia non si possono avere risposte precise dalla burocrazia e quindi non si può fare impresa. Avete mai provato ad andare per esempio nei tribunali per avere una lite giudiziaria con qualcuno? All'estero passano 2 anni e si ha la risposta, in Italia dopo 10 anni si ha il nì. E questo è il discorso chiave. È inutile a un certo punto cercare di creare posti di lavoro fasulli che costano nient'altro se non si rilanciano le aziende. Se non si toglie, se questa burocrazia funzionasse bene, l'Italia sarebbe un paese stupendo dove lavorare. Così non si può andare avanti. Grazie Luigi, in diretta da un autocamionale, credo, perché si sentiva di sottofondo passare di tutto. Voglio sentire brevemente anche Antonio da Lucca, buongiorno. Buongiorno, io sono per creare nuovi posti di lavoro, che questo magari può essere come ausilio, perché così noi rimaniamo in un circuito chiuso, circoscritto. Questi sono i posti di lavoro, allora vanno via 10 e dentro 10, escono 10 e dentro 10, e se noi, meno male che l'Italia non cresce, cioè non nascono bimbi, se dovessero nascere 5 milioni di bambini nei prossimi 5 anni, che facciamo noi? Aumentano sempre di più i disoccupati, perché bisogna creare nuove professioni, nuovi posti di lavoro, perché poi a mandare in pensione già uno che prenderà 1000 euro di pensione con una penalità e ne prenderà magari 800 per far spazio a un giovanotto a part time lì o a tempo determinato. Perché non fanno così? Chi ha le pensioni loro? Massimo devono prendere 5.000 euro al mese. Il resto tutto allo Stato, che serve per aiutare gente che prende il minimo della pensione, 100 euro in più al mese, e investire nelle infrastrutture, nei servizi, perché nei trasporti specialmente, che siamo indietro almeno 30 anni rispetto agli altri paesi europei. 9 in punto. Fantozzi. Ma dove cazzo è il mio cartellino? Ma che sei diventato scemo? Sei andato in pensione ieri, il tuo cartellino non c'è più. Vabbè, dai, ogni tanto qualche risata ce la facciamo anche con Fantozzi. In questo caso abbiamo aperto col colloquio di lavoro di Woody Allen. Parliamo naturalmente di lavoro e pensioni. Le due cose sono collegate in questo momento. Voglio chiudere con Bonanni, perché so che tra l'altro è su una tratta dove non è che prenda benissimo il cellulare, quindi rischiamo di perdercelo da un momento all'altro. A proposito invece di pubblico impiego, ossia l'ipotesi si è fatta anche per il pubblico impiego, si è detto con 3 lavoratori che escono ne potrebbe entrare uno giovane. Da questo punto di vista, dato che tra l'altro voi avete una forte rappresentanza proprio nel pubblico impiego come CISL, come la vedete? Ma nei fatti già accade, perché il turnover è bloccato e si fa solo per un quinto del turnover che a regime dovrebbe andarci, e quindi è chiaro che quando fanno il turnover per un quinto entrano i giovani, insomma, no? Sono molti anni che c'è il blocco del turnover e si fa solo per un quinto, quindi questo avviene nei fatti, già avviene, insomma. È chiaro che non prendono persone anziane, prendono giovanissimi, insomma. È chiaro, e poi ci sarebbe eventualmente da affrontare il problema di quella platea di precari della pubblica amministrazione, che mi pare siano 100.000, 110.000, qualcosa di questo genere. No, molto di più, tra il pubblico impiego e la scuola arriviamo a qualcosa come 600-650.000 persone, perché in tutta Italia hanno fatto i blocchi e poi nello stesso tempo comuni, regioni e così via hanno fatto entrare dalla finestra ciò che non poteva entrare dalla porta, ed è una responsabilità solo loro, insomma, no? E quindi questa storia va sistemata, perché non è dignitosa né per la pubblica amministrazione né per i lavoratori, e non gioca bene anche per la funzionalità della pubblica amministrazione. L'amico prima che stava, che di Varese credo e così via, che parlava di politicanti, non so se parlava di me o parlava di sé, Sì, mi scusi, io non l'ho corretto, però è chiaro che lei non è un politica, lei è un sindacalista, non è un politicante. Ma appunto, noi, lei lo sa, sosteniamo le tesi sue da sempre. E che bisogna appunto riportare tutto in ordine e bisogna guardare ai punti veri della nostra economia e invece non si fa affatto. E quando parlo di economia io parlo delle tasse, parlo dell'energia che ci costa troppo per un paese industrializzato, per infrastrutture che non si fanno, basta chiunque blocca un'opera e non va bene. E così lungo rosario delle questioni, noi ci battiamo tutti i giorni e il 22 giugno CGIL e CGIL UIL saranno in piazza proprio per insistere a che il governo assuma una posizione netta su queste questioni. Grazie Raffaele Bonanni, buona giornata. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Saluto Luigi Mansi, vicepresidente di Federchimica, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, dottore. Allora, stiamo parlando di staffetta generazionale. In realtà voi avete previsto già, ne parlavamo prima proprio, all'interno del vostro contratto firmato l'anno scorso, questa idea che si chiama, mi pare, Progetto Ponte, Mansi, mi corregga se sbaglio. Sì, guardi, noi il 22 settembre del 2012 abbiamo firmato l'ipotesi di accordo e poi l'accordo con col sindacato, ponendoci proprio il problema dell'occupabilità. È ovvio che l'occupabilità noi l'abbiamo pensata all'interno proprio del momento più tragico della crisi, quindi abbiamo pensato che per favorire l'occupazione giovanile si doveva creare questo progetto che all'inizio era stato chiamato Progetto Bridge, poi è stato chiamato in italiano Progetto Ponte, ora diventa staffetta generazionale oppure patto generazionale, ma comunque il nome poi non cambia. In sostanza noi vogliamo dare un'opportunità di più al giovane, anche perché lei sa bene che il giovane, con questo progetto vorrei essere chiaro, non è che aumenta i posti di lavoro, la crescita aumenta i posti di lavoro, certo. E sono d'accordo con tutto quello che ho sentito ora. Mi dice una cosa, Mansi, come funziona questo progetto Ponte e soprattutto se sta funzionando oppure no, perché visto che ormai sono, quant'è, 6 mesi che è entrato in vigore il contratto, 7-8 mesi che è entrato per poter funzionare è necessario il sostegno legislativo, perché deve attenuare l'impatto delle retribuzioni sul trattamento pensionistico dei lavoratori. Certo. Perché se non interviene, io auspico che il ministro metta in campo questo provvedimento, proprio perché deve essere poi previsto l'intervento governativo per dare i contributi alla pensione di colui il quale accetta di fare un lavoro di minore entità, quindi con minore retribuzione e quindi con minore contribuzione. Non credo che possa accettare poi di andare in pensione con una pensione più bassa. Ah, certo. Il punto è sempre quello, Mansi, sono i quattrini, cioè se non ci sono i quattrini si fa poco. Questo progetto ha una sua originalità, una sua validità e devo dire che il contratto chimico lo ha capito già nel 2011, quando abbiamo cominciato a lavorarci intorno al contratto con le parti sindacali. Chiaramente non è questo provvedimento che creerà la crescita, questo aiuta in un momento difficile come quello che stiamo attraversando. Certo. E poi la semplificazione burocratica, la restituzione dei debiti della pubblica amministrazione, tutto quello che Bonanni ha benissimo detto poco prima, perché ero al telefono e lo sentivo, tutto quello che Confindustria ha chiaramente detto, perché noi non dimentichiamo che Confindustria ha presentato un programma in cui ci sono impieghi e fonti già ben descritte per poter assicurare una crescita del PIL superiore al 2%, e questo ci permetterebbe di avere i conti in ordine e quindi cominciare a ripartire così come eravamo qualche tempo fa. Ormai me lo sono pure dimenticato quanto tempo fa eravamo in corso. Giustamente, la capisco. In questo momento le aziende come lei può immaginare, stanno soffrendo in maniera terribile. È un dramma la disoccupazione, ma non ci dimentichiamo che l'occupazione la fa l'azienda, la fa il manifatturiero soprattutto, e certo. Quindi dobbiamo dare un'attenzione particolare ai nostri settori. Tenga presente che la chimica rappresenta 53 miliardi di euro di fatturato in Italia, no. E quindi al terzo posto in Europa, decimo nel mondo, e vuol dire che la chimica va aiutata. Ci sono troppi laccioli burocratici, troppe cose che ci mettono nella condizione di dire ma delocalizziamo, facciamo prima, insomma, ecco. Allora, ritorno da Davide Colombo, che ho abbandonato da un po' dopo averlo sentito all'inizio della trasmissione, collega del Sole 24 Ore, proprio su questi punti. Insomma, Davide, è una questione di quattrini. Secondo alcune stime spannometriche, però insomma abbastanza attendibili, per creare 100.000 posti di lavoro in quel modo, e quindi insomma creazione, non so se è creazione di posti di lavoro, sostituzione, chiamatela come volete, insomma 100.000 posti di lavoro per i giovani, ci vorrebbe circa 1 miliardo di euro con quella modalità. Insomma, è sempre una questione di quattrini. E poi sull'altra questione ti voglio, la questione pannicello caldo, insomma, no? Finché non c'è la crescita, come ci dice Manzi, come ci dice Bonanni e come ci scrivono gli ascoltatori, c'è poco da fare. Sì, dunque, ci sono alcuni disegni di legge che sono stati presentati che propongono l'appostamento di 500 milioni iniziale per questo fondo che dovrebbe sostenere la staffetta, ma chiaramente qui quando si tocca la previdenza, perché qui stiamo parlando di una misura diciamo lavoristico-previdenziale, si spostano miliardi. A legislazione vigente, senza cambiare nulla, teniamo conto del fatto che da qui al 2016 la spesa pensionistica comunque crescerà di quasi 0,6-0,7 punti di PIL, questo per le semplici dinamiche demografiche del paese. Non è che abbiamo fatto questa riforma delle pensioni con questo drastico aumento del requisito di età per la vecchiaia perché eravamo pazzi, semplicemente perché c'è una deriva demografica ed economica che impongono questo tipo di livelli, no? Dopo anni qui si è accantonato il problema dicendo che no, invece tutto era in equilibrio, no? Purtroppo questa è la situazione. Se abbiamo l'età di vecchiaia ufficiale più alta degli altri paesi, è come dire un risultato del fatto che abbiamo un'economia, una demografia e una finanza pubblica che sono un po' più critiche degli altri paesi. Quindi le risorse sono cruciali, purtroppo ci sono risorse pubbliche non disponibili. Propongo una riflessione sul fatto che ci sono invece risorse disponibili private, per esempio se uno pensasse insieme alla staffetta a un diverso uso del trattamento di fine rapporto, che è un residuo contrattuale che abbiamo solamente noi in Europa, no? E lo distribuisce ai lavoratori in maniera diversa, comincia a metterlo nella busta paga dei lavoratori in maniera diversa, ecco, magari si arriva ad affrontare la staffetta con qualche briciola di risorse. Una battuta sola sulla questione della burocrazia e degli oneri amministrativi che strangolerebbero o strangolano l'economia. Alla fine della legislatura sono stati misurati in maniera estremamente scientifica con parametri OCSE 31 miliardi di oneri amministrativi che pesano sulle imprese e i cittadini annualmente. Con le semplificazioni in via di attuazione, in parte già attuate, si possono erodere fino a 8,5 miliardi di quei 31 miliardi di euro, quindi se si fa bene questa implementazione si può risparmiare. Attenzione, quei risparmi significano minori parcelle dei consulenti delle aziende, tutti i consulenti, dal tributarista al consulente del lavoro, dal commercialista all'avvocato, eccetera, eccetera. Naturalmente con una amministrazione più semplice lavorano meno per le loro imprese. Non è un gioco a somma zero, qualcuno ci perde, sappiamolo, procediamo a questa implementazione sapendolo, insomma. 9 in punto. Su Twitter mi scrive Giuseppe De Simone sul tema appunto della staffetta generazionale. Stai cercando con Lumicino una voce discordante, una soluzione che piace, fattene una ragione. No, ma può darsi, va benissimo, insomma, che piaccia. Ci sono dei dubbi espressi da persone più autorevoli di me. Non è detto che non sia una buona soluzione, ma certamente, come già dicevano gli ascoltatori, come ci ha detto Bonanni, come ci ha detto Davide Colombo, come ci ha detto Luigi Manzi, il vicepresidente di Federchimica, è una soluzione che naturalmente risolve il problema sul momento, serve a tamponare l'emergenza, ma chiaramente, evidentemente, non è una soluzione definitiva. La soluzione definitiva passa al problema del lavoro, passa evidentemente per la crescita economica. Sentiamo Antonio da Stoccarda addirittura. Buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Sì, la sento, la sento. Ehi, buongiorno. Senta, io chiamo per rilevare una cosa. Come è stato già detto da chi ha preceduto, su questo si tratta di un pannicello caldo. Non è stato forse ancora detto riguardo l'abilità di questa norma. Allora, se ho capito bene, si tratta di chi è più avanti negli anni, che dovrebbe rinunciare a qualcosa o trasformandosi in part-time piuttosto che andare in pensione anticipata, ma comunque con degli svantaggi, per lasciare il posto a qualcun altro. Sì. Ora, quindi si tratta alla fine di un atto volontario che fa il lavoratore anziano. Quindi come pensano chi ha avuto questa trovata, come pensa che si svolgerà nella pratica la cosa? Cioè, diventerà per forza un po' di nepotismo sul meritocrazia. No, attenzione, ripeto, anche perché per chiarire ulteriormente, non è la staffetta generazionale che ci ricordiamo dai decenni passati, è una staffetta generazionale che avviene sulla base del merito, cioè ti scegli tu il lavoratore. Però Antonio, visto che ci chiama da Stoccarda, ma in Germania la fanno questa cosa oppure no? Lei lo sa, no? No, guardi, che io sappia, in Germania le aziende tuttora cercano giovani, cercano lavoro. Io non più tardi dell'altro giorno ho incontrato 4 siciliani appena laureati, ingegneri meccanici, che sono la prima cosa che hanno fatto, sono corsi in Germania per cercare lavoro. Non hanno nemmeno provato a cercarlo in Italia. E questo è. Grazie Antonio. Luigi Manzi, come si fa? Naturalmente una cosa di questo genere non puoi farla obbligatoria, la devi fare volontaria. Come lo convinci un lavoratore anziano a prendersi il part-time? Non ci dimentichiamo che ci sono lavorazioni che sono molto impegnative e che con l'età poi diventano molto più impegnative. Lei pensi a un autista a 62-63 anni comincia ad essere molto più impegnato che non nell'età giovane, in cui è magari appassionato di guida. E allora lui potrà ridurre il suo carico di lavoro, ma sto parlando di addetto un autista per banalizzare, ma ci sono lavorazioni che impegnano anche fisicamente, che naturalmente arrivati a 60 anni cominciano ad essere più impegnative. Pensi ai turnisti, pensi a coloro che sono per tutta la vita fanno 3 turni di lavoro e quindi lavorano sempre di notte. Ecco, allora questa gente qui può, con la sua esperienza, essere impiegata utilmente in altre attività della fabbrica e soprattutto fare da tutor per il giovane che si inserisce e che naturalmente io penso che in Germania è ovvio che ci sarà in questo momento opportunità di lavoro, ma non ci dimentichiamo che noi siamo passati ad avere in Italia una categoria degli scoraggiati, di coloro i quali assolutamente non riescono nemmeno a cercarlo il lavoro. Bene, questa gente qui potrebbe essere validamente impiegata proprio perché si comincia a creare una richiesta nel mercato del lavoro giovanile, dove effettivamente la situazione è drammatica. Naturalmente sappiamo che non è questa la soluzione che mette a posto le cose in Italia. È inutile ripetersi, la crescita è quella che ci potrà mettere in condizioni risolvere, sia pure parzialmente, questi problemi. Quello che vorrei ribadire è che Confindustria ha presentato un piano concreto sulla crescita. basta andarlo a vedere magari criticamente e cominciare ad applicarlo. Cominciare a ragionarci. Grazie Luigi Mansi, vicepresidente di Federchimica, per essere stato con noi. Grazie a Davide Colombo, grazie del Sole 24 Ore. Chiedo scusa a Fabio da Vicenza, Pasquale da Napoli, a tutti coloro che non sono riusciti a far intervenire. Un ringraziamento ad Alessandro Marco Tulli in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani, come sempre. Ricordati! Mancano 40 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.